Sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. C'è un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Adesso dovete farci questa gentilezza con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko Labella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno alle... Invece che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sono $120, come vuole pagare? Ecco $50 in contanti, 30 li addebiti su questa carta. Dieci su questa, 20 su questa. È carina. Ebbene sì, dal film I Love Shopping, è sempre uno dei film più adeguati naturalmente per introdurre il tema del quale torniamo a parlare. Dal commercialista o dall'avvocato, come per lo shopping in boutique? Forse Nicoletta ci siamo quasi, perché oggi scatta l'ora X, potremmo chiedere di pagare con il bancomat tutte le imprese e i professionisti dei cui servizi naturalmente ci andremo ad avvalere. Anche se sono tanti i punti da chiarire su questa novità, è un obbligo o non è un obbligo per loro metterci a disposizione il POS, ovvero il sistema per il pagamento elettronico? La questione è molto controversa, ma di novità concrete per i nostri ascoltatori ce ne sono parecchie, e allora iniziate a chiamarci, sia che siate professionisti, sia che siate clienti ormai abituati alla moneta elettronica, 800 24 00 24. Sì, un numero verde per parlare di questa piccola rivoluzione che interessa milioni di imprese, artigiani, studi professionali, che ha scatenato le proteste di decine di associazioni di categoria che lamentano in primo luogo costi e commissioni rilevanti a fronte di importi non elevati e quindi a tutto vantaggio dei circuiti finanziari. Deborah, allora con i tuoi esperti ci aiuterai a vederci più chiaro e sono certa raccoglierai anche le ragioni di chi al POS non vuole resistere. Tra l'altro segnaliamo anche un bell'articolo sulla stampa del Gianluca, nostro amico Gianluca Nicoletti, anche molto divertente come lui sa essere. D'altronde non c'è nulla di nuovo sotto il sole, resistere a un cambiamento può essere naturale, specie se imposto o vissuto come tale. Cambiare, si sa, può destabilizzare, anche se il cambiamento è in meglio, lo sappiamo tutti, no? Per esperienza diretta. Allora oggi nella seconda parte della trasmissione parleremo di cambiamento, cambiare o non cambiare. A partire dalle 11:50 ci raggiungerà il dottor Ballerini, che è medico, scrittore, psicoanalista freudiano, che ci aiuterà a capire qualcosa in più dei meccanismi che ci spingono o ci trattengono dal cambiare, poco o molto, nella nostra vita. Chi è? C'è l'idraulico, signora. Ah, lo faccio entrare, Lucia. Buonasera, signor, sono Stagliaro. Come mai è arrivato così in ritardo? Ho infrociato la macchina, li mortacci loro, a dove sta accesso? Di là, venga che l'accompagno. Dovrebbe cambiare la guarnizione della doccia. Dove sta? Di là. Buon riparo. Faccia con comodo. Che te credo. Io ho finito, sono 20 sacchi. Va già via? Beh, ho finito, che devo fare? Ho finito. Il mitico Renato Pozzetto nei panni di un idraulico nel film La casa stregata, che io ogni volta che trattiamo questo argomento, Nicoletta, mi spendo, perché anche se siamo sui 20 sacchi, quindi un po' meno della soglia che obbliga a chiedere, che permette ai clienti di un servizio di chiedere il pagamento con il bancomat. Nicola Forte, consulente tributario ed esperto per il Sole 24 Ore, buongiorno e bentrovato a Cuore Denari. Grazie, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta e saluti a tutti i radioascoltatori. Allora, anche gli idraulici da oggi devono presentarsi a casa nostra con la macchinetta per pagare con il denaro elettronico. La norma riguarda solo il bancomat o anche la carta di credito? Ci spieghi subito l'ABC di questa novità, Forte. Certo, chiariamo subito che non c'è obbligo né di installare il POS né di presentarsi a domicilio del cliente per l'idraulico con il POS, perché può dare assicurarsi che il mio cliente, colui che fruisce poi dell'intervento, intenda pagare con assegno, intenda pagare anche con denaro contante, no? Rispettando il limite dell'antiriciclaggio. Quando è che scattano i problemi? Scattano quando appunto l'utente, il destinatario della prestazione, chiede di effettuare il pagamento attraverso una carta di debito. Quindi iniziamo a chiarire che la novità riguarda il bancomat e non la carta di credito. E la novità riguarda cessione di beni, prestazioni di servizi, quindi anche quelle rese dagli artigiani, dagli idraulici, ma anche i professionisti, quindi i servizi in generale. Allora, la norma di cui parliamo è sicuramente controversa anche per le questioni che già Nicola Forte ha sollevato. Non c'è obbligatorietà da parte dei professionisti di dotarsi appunto della strumentazione, c'è però il diritto per l'utente di questi servizi o per chi acquista un determinato bene, appunto il diritto di chiedere di pagare con la moneta elettronica. Naturalmente le categorie interessate Forte non l'hanno presa benissimo. Noi oggi cercheremo di fare chiarezza e di dare ai nostri ascoltatori delle indicazioni concrete su come comportarsi rispetto a questo tipo di pagamenti. Per cui 800 24 00 24, il numero verde per voi se siete professionisti, artigiani, esercenti. Diteci quali complicazioni, coste e fatiche comporta l'introduzione del pagamento elettronico nella vostra attività. Se invece siete normali clienti e utenti di beni e servizi, raccontateci quali dubbi avete e in quali situazioni pensate di potervi trovare con i vostri professionisti di fiducia, o anche in caso di acquisti o comunque transazioni occasionali. Potete scriverci su Facebook, su Twitter o al 349-238-6666. Allora Forte, facciamo un quadro di questa norma il più semplice possibile. Ci stiamo riferendo ad una indicazione fissata inizialmente dal provvedimento 179 di 2 anni fa, del 1 gennaio. Praticamente questa novità avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio di quest'anno, e poi naturalmente proprio su sollecitazione delle categorie che si sono un po' sollevate sugli scudi è stato il tutto prorogato al 30 giugno, cioè ad oggi. Ribadiamo appunto che non si tratta di un obbligo, ma precisamente parliamo di una, come dire, di un istituto nuovo, che è quello della mora del creditore. Che cos'è? Esatto, mora del creditore è una situazione, come potremmo definire, quasi paradossale, cioè è il creditore, il soggetto che effettua la prestazione, nell'esempio l'idraulico, che in qualche modo, rifiutando di accettare il bancomat, ostacola il pagamento da parte di colui che è tenuto, cioè il debitore, il destinatario della prestazione. Questo in concreto che cosa vuol significare? Che il soggetto che deve pagare non è che è liberato e non può più pagare, infatti, per il solo fatto che io dico no, rifiuto il pagamento tramite bancomat. Vuol dire che a determinate condizioni, qui la vicenda è un po' più complicata perché dovrebbe anche sotto il profilo giuridico fare un'offerta formale. Formale vuol dire addirittura notificata con un ufficiale giudiziario, ovviamente non è questo il caso per piccoli importi, però la mora del creditore proprio nasce quando lui fa un'offerta formale notificata con un ufficiale giudiziario. E in che cosa si traduce? Si traduce che il creditore, cioè l'idraulico, non può più richiedere gli interessi. Questo vuol dire mora del creditore. Quant'è complicata la faccenda, Forte? Andiamo ad un caso semplice. Allora, mettendo che Nicoletta domattina abbia bisogno, ti auguro di no, chiaramente, no, dimmi di che cosa. Per sistemare il rubinetto della tua cucina, naturalmente, perché c'è una piccola perdita, deve venire appunto il professionista. Chiamo l'idraulico. L'idraulico di Carlo Lo Stagnaro, quello Renato Pozzetto, quello di prima. E allora, la spesa, mettiamo, sia di 60 euro, visto che supera la soglia indicata dalla norma appunto per ricevere il pagamento tramite POS, Forte, Nicoletta può dire: bene, io accetto questo pagamento, ma siccome tu non hai il POS, caro il mio idraulico, domattina ti faccio un bonifico bancario. Queste sono le situazioni che moltiplicheranno teoricamente? Sì, questo comportamento, la descrizione è assolutamente fedele, è corretta, quindi mi posso mettere d'accordo con l'idraulico, oppure posso accordarmi nel senso, dico: guarda, domani mattina vado a prelevare al mio sportello bancario al bancomat e domani provvedo a saldare il mio debito. Diciamo che poi quando il rapporto è un rapporto fidelizzato, quando si conosce il cliente, in realtà poi le soluzioni si trovano, quindi diciamo le preoccupazioni sono eccessive. E però qua ci sono anche tante perplessità. Leggiamo qualche messaggio. Allora, un ascoltatore scrive: io penso che per trasparenza sullo scontrino andrebbe specificato qual è l'importo commissionale che la banca percepisce. Ah, hai capito. Per cui se eventualmente il professionista si sente di caricare sul cliente i costi che lui sostiene per attrezzarsi con tutta la nuova, il nuovo armamentario tecnologico, potrebbe essere una buona soluzione per rendere più, come dire... trasparente. Esatto, tutto questo rapporto. Forte. Ma non so neanche se tecnicamente qualche dubbio è realizzabile, perché allora adesso parliamo di idraulico, quindi l'idraulico normalmente emette la ricevuta fiscale, ma chiaramente l'adempimento riguarda anche chi fa cessioni di beni e quindi più propriamente solitamente emette scontrini fiscali. Gli scontrini fiscali sono emessi con misuratori fiscali e quindi poi quei corrispettivi vanno nel libro dei corrispettivi, ma in realtà poi lo scontrino fiscale deve contenere delle indicazioni specifiche che sono individuate con decreto ministeriale, quindi capisco le esigenze di trasparenza, ma non creiamo più complicazioni in un sistema fiscale che è già molto complicato. Tra l'altro fra un po' poi avremo dei professionisti di vario tipo ai quali chiederemo quanto pensano di dover spendere per attrezzarsi con tutta questa novità, per cui anche cercheremo di capire eventualmente quanto poi andranno a caricare sui clienti. E se si attrezzeranno, perché esatto, se non c'è, non c'è una sanzione, sai, è come fare un compito in classe senza voti. Filippo, buongiorno, ci chiama da Monza all'800240024. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua, un bell'architetto. Grazie per il bello. Non sappiamo, ecco, infatti. Un simpatico architetto da Monza. Allora, io mi trovo piuttosto stupefatto di fronte a questa cosa, sì, perché la mia professione, per ovvi motivi, io non vendo un chilo di patate o 10 chili di mele, vendo prestazioni intellettuali con progetti eccetera che 99 su 100 superano già i 1.000 euro. Esatto. Quindi e su questo c'è già un obbligo di legge, mi pare, no? Che obbliga a non fare trasferimenti di denaro senza tracciabilità al di sopra dei 1.000 euro. Questo per le norme antiriciclaggio, Filippo. E quindi io già ho un obbligo, sì, in qualche modo di poter ricevere per forza o con bonifico o con assegno il mio onorario. Allora questo superi 1.000 euro. Il tema è i piccoli pagamenti, Filippo, esatto, che non sono stati mai tracciati. I piccoli pagamenti, io quali sono nel mio mestiere? Possono essere la certificazione energetica, ma siamo al di sotto dei 300 euro come prezzo medio qua intorno, quindi già sono esenti. Possono essere la piccola variazione catastale. E siamo anche questi al di sotto dei 300 euro, quindi non capisco questa cosa qua. Qua Filippo. E quindi lei cosa farà, Filippo? No, non ce l'ha già, lui è già posto. Io non farò un fico secco di niente. Non no, lei, però lei si avvarrà magari, Filippo, di altri servizi, le serve qualcuno che viene a casa a sistemare, che ne so, una tubatura che perde. No, qua parliamo per esempio di un lavoro nell'ordine di prezzo, ammettiamo di 70 euro se ci va bene, qua proprio sto andando naturalmente a caso. Il tema è lì, come dire, non pagare in contanti questa prestazione, perché molto spesso difficilmente certe categorie di professionisti poi la fattura, la ricevuta non ce la rilasciano, capisce qual è il tema? Ma guardi, io se viene un idraulico a casa mia la ricevuta la voglio perché la scarico. Certo, ma perché lei... questo è il fatto, cioè la non possibilità di scaricare le spese. Ci fosse questa, sarebbe tutto più semplice. Infatti. Tutti quanti a proposito, guardi, adesso Filippo... Un'altra cosa. Ho chiesto alla mia banca per curiosità, poi ho parlato con i miei colleghi, anche i miei colleghi non fanno niente, almeno quelli che ho contattato io, quelli che frequento io. La mia banca vuole qualcosa come 45 euro al mese, sia che io faccia operazioni, sia che io non le faccia. Quindi solamente un po' per il noleggio del POS, Filippo. Perdere. Per parcheggiare nel mio ufficio questa macchinetta, sì, e con avere un collegamento online, eccetera. Questo è quanto, e di fatto sono 600 euro che io devo dare alla e mia sono banca. Tante. Su questo in Filippo fine... ha ragione, possiamo dirlo. Zero pagamenti, perché io ne sono sicuro, zero pagamenti che avverranno con questa cosa qua. Un'ultima cosa, basta che io metta nel mio... Lei viene da me, mi chiede, mi fai un progetto per il mio villone, sì, eccetera. Sì, vabbè, magari io, possa venire. Io dico, subito, con questo tempo di crisi, mi metto a capofitto a farlo, no? Facciamo un bel incarico scritto, un disciplinare. Io metto dentro mettiamo di comune accordo che lei mi paga per bonifico, sì, abbiamo risolto il problema. Infatti Filippo, io il mio architetto per fare i lavori di casa l'ho pagato con un bonifico, tutta questa polemica non c'è stata. Io credo che lei appartenga ad una categoria professionale che ormai ha superato la polemica su questo, perché i pagamenti per prestazioni appunto di un architetto sono di importo nettamente superiore. Qua il tema è forte, faccio fare un inciso a lei, pagamenti di ordine numerico inferiore, giusto? Purtroppo non so, cioè, no Filippo, volevo sentire Nicola Forte, voglio sentire Nicola Forte. Sì. Sono assolutamente d'accordo, per gli architetti come per altre categorie professionali è assolutamente un falso problema, perché se viaggiamo per importi di superiore ai 999 euro, come abbiamo ricordato, c'è l'obbligo dell'antiriciclaggio. Il problema ce l'hanno altre categorie, per esempio nell'ambito delle professioni, i medici che mettono molte fatture da 100, 150, 200, 250 euro, e in questo caso in effetti può essere utile. Ma anche qui secondo me la portata del problema si ridimensiona. Immaginiamo per esempio i centri diagnostici, no? Sono già tutti attrezzati, prima si va alla cassa, si paga con carta di credito o bancomat e poi si inizia la visita. Quindi il problema riguarda figure che sotto un certo profilo sono, non voglio dire marginali, sono magari fior fior di professionisti, ma che operano individualmente. Esatto, che non hanno degli studi professionali, che già si sono, per cui sono un po' le categorie che prima abbiamo citato. Non ce ne vogliano, ma loro sanno bene appunto che sono un po' nell'occhio del ciclone da molto tempo per queste questioni. Allora, adesso sentiremo i diretti interessati, cosa ne pensano. Ti presento, Nicoletta, due ospiti. Sì. Che ci manifestano le perplessità, le esigenze, le considerazioni di categorie differenti. Marco Kukel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno, molto lieta. Buongiorno. E anche Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani, qua del Milanese. Accornero, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Voglio sentire subito lei, Accornero, perché a questa associazione appunto professionale sono proprio iscritti, immagino, tutti gli idraulici e i professionisti che abbiamo citato prima. Sì, certo, noi tra Milano e provincia abbiamo 14.000 iscritti artigiani che quindi sono tutti coinvolti da questa iniziativa, che per il momento, è giusto ricordare, è sostanzialmente su base volontaria, perché non vi sono sanzioni se non il fatto di essere, diciamo, giudicati negativamente dal mercato. Ciò non toglie che in teoria, se c'è un obbligo, bisognerebbe rispettarlo. Gli artigiani non si sottraggono a questo obbligo, anche perché si va verso la modernità e quindi facilita le transazioni. Sicuramente noi abbiamo un sistema bancario che impone dei costi elevatissimi e che quindi tramutano questo obbligo in una sorta di tassazione. Abbiamo calcolato circa l'1% per ogni transazione. Certo, ma voi magari come organizzazione di categoria non potete andare, che ne so, presso qualche singolo istituto di credito e negoziare magari delle convenzioni a Cornero, no, per rendere un po' più fluido quell'introduzione di questa novità, che noi prendiamo atto del fatto che a voi costa, perché è inevitabile, tutto costa, e figuriamoci se le banche non si fanno pagare per questo. Che dice? Dunque, è esatto quello che lei dice, e adesso non voglio far pubblicità, no, noi abbiamo fatto un accordo con sistemi ancora più semplici, adesso con i cellulari, smartphone, è possibile fare transazioni senza l'uso del POS, ma replicando il POS ci sono sistemi di questo genere. Abbiamo fatto un accordo in questa direzione che abbatte di moltissimo, anzi per i primi due mesi è gratuito totalmente l'utilizzo di questi sistemi elettronici. Certamente non tutti possono accedervi, occorre far pressione sulle banche perché per abbattere ulteriormente i costi vengono ridotti. La nostra proposta è anche, visto che si declama che è nell'interesse anche della collettività, potrebbe prevedere, come ad esempio avviene per altri costi, che vengano ripartiti quantomeno al 50% tra chi usa il bancomat e chi riceve il pagamento, perché non si capisce perché debba pagare tutto il professionista, se fosse il 0,5 lo so. A Cornello, guardi, la devo fermare, abbiamo capito, vorrei sentire qualche ascoltatore con Nicoletta e poi anche i commercialisti che ne io pensano. Vorrei portare il messaggio che Giuseppe ci manda su Twitter. Sì. Stamane ho fatto benzina con il bancomat, la titolare mi ha riferito che prossimamente pagherò una commissione. Beh, e altri ascoltatori al 349-238-6666 ci raccontano di averla già pagata questa commissione, con di avere già di avuto una maggiorazione. Pure pagando con il bancomat il benzinaio. Nicola, sì. Forte, le risulta? Io fino è possibile? Ad ora, con la carta di credito sapevamo che c'era la commissione per il rifornimento di carburante, ma anche con il bancomat adesso arriverà? Ma francamente non mi risulta, quindi non... Ecco, allora qua speriamo che non ci sia qualcuno che ci marcia un po' ecco. Perché bisognerà vigilare. E infatti anche Antonio ci scrive: vedo sempre più distributori esercenti vari, un limite minimo per i pagamenti POS, e ieri ho visto un cartello che per i pagamenti POS c'era una maggiorazione sul prelievo, ma mi chiedo, tutto questo è legale? No, quindi ci pare di no. Allora Patrizia poi fa tutto un elenco di professionisti: la parrucchiera, il carrozziere, il meccanico, il gommista, l'estetista, il fisioterapista. Patrizia ha ragione, d'ora in poi per queste prestazioni professionali, se qualcuno ci prova, io con tutto il rispetto per queste persone che sono liberi professionisti, che pagano una marea di tasse, però il provarci e dire non ti faccio la fattura, ti faccio lo sconto, non va più bene. D'ora in poi possiamo esigere appunto di pagare con strumento tracciabile. Cuore e denari. Ho cambiato residenza. Cioè, io ho cambiato la musica. Allora, il cambiamento della mia vita di quest'anno è appunto il cambio di lavoro. Cambiamenti, sì, parecchi cambiamenti, repentini anche, non tutti piacevoli. Allora, cambiamenti, quest'anno sto cambiando tutto praticamente, quindi lavoro, casa, vita, sport, qualcos'altro. Ma sarà così sempre, perché tutto cambierà. Si possono cambiare tante cose, piccole o grandi, dalla pettinatura alla casa, dal partner al lavoro. Ci sono persone che cambierebbero di continuo, altre che non lo farebbero mai, altre ancora che si concedono piccoli, oculati cambiamenti perché non amano rischiare troppo. C'è chi cambia e si pente, e chi si pente di non aver cambiato. Le sfumature, care amiche e cari amici, sono tanti, ne parleremo insieme nella seconda parte della trasmissione con il nostro esperto. Vi abbiamo chiesto di raccontarci il cambiamento che ha radicalmente trasformato la vostra vita. Ci ha scritto già un'ascoltatrice: 2 anni fa sono sopravvissuta a un bruttissimo incidente, questa esperienza mi ha cambiato, la mente è più aperta, cerco di avere meno pensieri, meno negatività, vivo perché sono viva. 800 24 00 24, se doveste descrivere la vostra propensione al cambiamento, quale immagine usereste? Il mare che cambia di continuo o la montagna che all'apparenza sembra sempre ferma? Ehi, la mia prima carta di credito! Niente più contanti! Riceverò un mucchio di cataloghi! Sono stata segnalata e scelta come una sfrenata consumatrice! Sai che fa un rumore delizioso quando la spezzi? E certamente anche la prima carta di credito è un bel cambiamento nel nostro modo di essere consumatori, così come lo è il primo sistema POS per un professionista che fino ad oggi non l'ha mai avuto. Potrebbero essere molti oggi quelli che lo usano per la prima volta, anche se abbiamo capito che si tratta di un obbligo che non è proprio un obbligo, quello che entra in vigore oggi, in quest'ultimo giorno di giugno. Va detto che comunque già in tanti lo usavano, e chiediamo conferma a Marco Cook, il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, che salutiamo di nuovo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, i commercialisti sono stati fra i primi professionisti ad esprimere le loro perplessità su questo adempimento. In realtà però molti studi professionali già sono dotati di tutto l'armamentario tecnologico che serve per soddisfare i clienti in questo senso. Lei ce l'ha nel suo studio, Kukel? No, io non ho il POS nel studio. Lo metterà? Lo sto valutando, anche perché comunque, come è già stato detto in precedenza, i costi sono abbastanza elevati, sia come canone mensile che come costi di transazione. E onestamente come categoria la viviamo un po' male, diciamo. Kukel, mi scusi, no, solamente una questione tecnica. Se sta al viva voce la pregherei di mettersi in cornetta, no, perché non sentiamo nulla. Vabbè, allora non sono in viva voce. Perfetto, allora magari si avvicina un pochino la bocca alla cornetta. Sono al cellulare. Eccoci qua, perfetto. Mi ribadisca un po' le sue considerazioni che le ho interrotto. Dicevo, indubbiamente i quello che sta frenando un attimino la messa dei post all'interno degli studi professionali sono principalmente i costi, che comunque sono costi abbastanza elevati rispetto a quello che è il reale utilizzo, perché anche noi commercialisti principalmente lavoriamo con le aziende, quindi con le imprese titolari di partita IVA, con i quali abbiamo un rapporto già tracciato per le nostre professioni, le nostre adempimenti, perché comunque sia o con assegno bancario o con bonifico già le nostre parcelle vengono pagate con queste modalità tracciate. Solamente per piccoli casi sporadici, quindi per prestazioni effettuate nei confronti di privati, potrebbe nascere effettivamente la necessità, però il transato effettivo annuale è veramente risibile rispetto ai costi effettivamente sostenuti. Ecco, ma oltre alle difficoltà o comunque le resistenze di carattere economiche, che noi capiamo perfettamente, ci sono anche delle difficoltà oggettive ad operare, perché per qualcuno c'è anche un po' di resistenza mentale rispetto a questo cambiamento, poi ne parleremo con Nicoletta. A proposito di cambiamento. Come tante persone fanno proprio fatica a pagare al supermercato col bancomat o con la carta di credito, perché proprio non si riescono a scollare dal contante, forse anche qualche professionista ha qualche difficoltà operativa in questo senso? Kukel? No, allora in Italia è vero che la propensione a pagare con la carta elettronica, con la moneta elettronica è sicuramente inferiore rispetto al resto del mondo, ma secondo me è proprio deriva dal fatto che i costi sono elevati. I giovani la stanno usando sempre di più, diciamo la nuova generazione la sta usando sempre di più, forse sono le persone un pochino più anziane che hanno poca dimestichezza e quindi hanno un po' di timore a utilizzare determinate forme di pagamento. Per quanto riguarda noi professionisti, le posso assicurare che non è un motivo di non voler tracciare i nostri pagamenti, i nostri onorari, assolutamente, anzi noi siamo contro l'evasione, l'abbiamo dimostrato nel tempo anche prendendo posizioni forti. L'unica cosa è che non crediamo che questo tipo di utilizzo serva effettivamente a effettuare una lotta all'evasione seria. Vabbè, le su cose questo da fare, forse devono essere altre. Lo so, devono sempre essere altre, però Kukel, se non si comincia mai da nessuna parte, io ve l'ho raccontato già l'episodio di Capri, no? Non serve mai a niente, però sono stata a Capri, abbiamo preso il premio con il Sole 24 Ore, guarda caso, dopo i blitz dell'Agenzia delle Entrate, non esiste un commerciante che non ti rilascia uno scontrino anche per cose microscopiche, il lettino sulla spiaggia, addirittura il tizio che ce l'ha consegnato, dopo un po' se n'è andato, appunto noi gli abbiamo dato i nostri 15 euro per stare due ore là, pure tanti, se n'è andato ed è tornato con lo scontrino, signore ecco qua, per cui Kukel, secondo me se non si parte mai da niente... È giusto, allora torniamo a questo sotto un altro aspetto, benissimo partire da qualcosa che può anche essere migliorato nel tempo, l'unica cosa è che non può essere ribaltato sull'operatore economico, impresa, artigiano, professionista, l'onere per il quale lo Stato non è in grado di assolvere il proprio dovere, perché se c'è un'evasione molto alta in Italia, evidentemente al di là poi anche della cultura generale dei cittadini c'è anche una difficoltà oggettiva dello Stato ad adempiere al proprio dovere. Allora, ribaltare i costi di questa attività sui cittadini credo che sia poco corretta. Allora, creiamo un credito d'imposta oppure azzeriamo o riduciamo al massimo le commissioni e vedrà che tutti a questo punto, tutti i professionisti ma anche le imprese adotteranno il POS. Che dicono gli ascoltatori, Nicoletta? Allora, gli ascoltatori su Twitter, Katia ci scrive: con il POS obbligatorio non si fa emergere il nero, si ingrassano le banche. Ma Giuseppe dice: siamo un paese di disonesti, nel resto d'Europa si paga col POS anche un euro. Anche io mi inchino. Giuseppe, negli Stati Uniti lo stesso, se vai a prenderti un cappuccino da $2, tiri fuori la carta di credito, non si scandalizza nessuno, qua ti guardano come se fossi un marziano. E chi non vuole farlo, perché tirano sempre in ballo gli anziani, perché l'anziano ha difficoltà, a parte che gli anziani si stanno attrezzando. Altro che, sono molto più avanti di noi. E comunque chi non vuole non è obbligato. Andrei però, perché ci sta aspettando da tempo, da Donatella, ci chiama da Padova all'800240024 e subito dopo abbiamo un nostro amico taxista, esatto, Marco da Roma. Perfetto. Donatella, buongiorno. Donatella nel frattempo è andata a farsi un pagamento. Andiamo a Marco. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Chi va l'osto perde il posto. Ma chi va a Roma perde la poltrona, noi andiamo a Roma con Marco. Ci dica. Buongiorno. Il discorso è questo, sentivo i vostri interlocutori prima, e invece per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche i miei soci della mia cooperativa, noi abbiamo fatto della carta di credito, fiore all'occhiello, da 20 anni ormai la mia cooperativa, la Zavarcanda, utilizza la carta elettronica come pagamento. È una questione anche di abitudine, anche perché a Roma ci sono tanti turisti che prendono, cioè, le pare, giustamente vi siete adeguati, anche perché poi è una questione anche di concorrenza, c'è, cioè, chi non le fa e noi le facciamo, per cui è una questione anche di opportunità. L'unica cosa che mi trova d'accordo con chi ha parlato prima di me è che purtroppo le commissioni sono ancora troppo alte. Penso soltanto che se un po' tutti quanti ci sforzassimo ad usare, può darsi che si potrebbero abbassare. Infatti, Marco, grazie per il suo spunto interessante, concreto, positivo, e insomma, pur condividendolo, ribadiamo, Nicoletta, le perplessità, i timori, le contestazioni dei professionisti che fanno un po' fatica adesso a fare questo cambiamento, insomma, perché sono costi aggiuntivi. Ecco, sono montagne, non sono poche, perché noi abbiamo chiesto l'immagine, esatto, identificarsi in un'immagine, certo, a proposito del cambiamento, in questo momento fanno le montagne. Ecco. Sentiamo Nicola Forte, come possiamo fare allora per arrampicarci su questa montagna, eventualmente superare questo ostacolo, scavalcarla con serenità. Quali suggerimenti possiamo dare ai professionisti che sono all'ascolto e che adesso guardano proprio con i nervi, come dire, al massimo, no? Questa novità, quali soluzioni si possono trovare, per esempio, se il nostro commercialista, il nostro avvocato, il nostro dentista, se non hanno il POS, e come possiamo comportarci, come possiamo metterci d'accordo? Se diciamo ti pago domani con il bonifico e questo ci dice, sai che c'è, che ti rompo di nuovo il rubinetto e così la mia prestazione non l'hai ricevuta, perché non vorrei che si scatenasse pure qualcosa di pittoresco e folcloristico come questo, che ci suggerisce di fare? Certo, no, il consiglio è di buon senso, magari prima dell'inizio della prestazione, guarda, io vorrei procedere col pagamento in questi termini in modo che il rapporto è chiaro sin dall'inizio, poi ripeto, quando il rapporto è fidelizzato problemi di questo genere non ci sono, problemi riguardano solo le prestazioni occasionali, ma se si chiarisce in anticipo possibilità di equivoci non ce ne sono. E poi anche lo stesso sottosegretario alle finanze ha chiarito espressamente in un'interrogazione parlamentare che l'obbligo non esiste, è solo un onere, un'opportunità, quindi ognuno sarà in grado di valutare se sopportare costi compatibili con la sua attività e sfruttare questa opportunità. Benissimo, io ringrazio Nicola Forte, Marco Cucali, vi segnalo solo, poteva farsi mancare il Codacons, una battaglia su questo argomento. Assolutamente no. La battaglia su questo tema si chiama Fatevi mandare il conto a casa. Commercianti e artigiani non possono obbligare clienti a pagare con contanti, i consumatori si facciano mandare il conto a casa da esercenti senza POS. Ti immagini tu domattina vai in un negozio, spendi 40 euro perché ti sei presa un pantalone, una maglietta con i saldi che stanno già cominciando, non c'è il POS, no? Allora mi prendo le cose e domattina ti pago. Pago. Questa mi me la voglio vedere. Signora, lasci pure qua. Buongiorno e arrivederci alla prossima. Cuore e denari. Le due principali regole che stanno alla base della vita stessa sono: il cambiamento è inevitabile. Tutti cercano di resistere al cambiamento. Damon William Edwards, docente, saggista e consulente statunitense. E insomma, Deborah, come dargli torto? Tutti sappiamo che il cambiamento è inevitabile, no? Lo possiamo toccare con mano, anzi vedere davanti allo specchio. Pensate come eravate a 18 anni, guardatevi ora. Per carità, io non vi chiedo di fare un bilancio, vi invito solo a prendere consapevolezza che minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, anno dopo anno, per tutto il corso della nostra vita, qualcosa dentro e fuori di noi cambia. Noi siamo programmati per cambiare, eppure non siamo sempre pronti a cambiare. cavalcare o accettare il cambiamento. Spesso cerchiamo, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, di resistergli con tutte le forze. Intanto ci ha raggiunto il nostro esperto che oggi ci aiuterà a capire qualcosa in più dei meccanismi che ci spingono o ci trattengono dal cambiare poco o molto nella nostra vita. Salutiamo il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore, psicoanalista freudiano e anche, questo mi piace, voglio ricordarlo, vincitore del premio Andersen, che è il premio per la letteratura dei ragazzi. Buongiorno. Buongiorno, dovevi proprio dire dell'Andersen, sì. Sì, io volevo dirlo perché a volte ci sono dei cambiamenti che ci arrivano da delle cose molto piacevoli, come la vincita di un premio. In attese, e cambiamo noi e vediamo che però cambiano anche gli altri nei nostri confronti. Ah, è proprio così, io ti ho fatto questa battuta perché sono un po' timido rispetto ai premi, mi sono accorto come bisogna anche sapere accettare i riconoscimenti, nel senso non è così automatico. Siamo come magari, i complimenti, bisogna saperci fare anche con quelli. Ma sì, l'Andersen è stato per la signorina Euphorbia come miglior libro dei 12, per i 9-12 anni, è stata una sorpresa. E fa parte di quei cambiamenti che non dipendono da noi, perché ci sono dei cambiamenti che ci vengono imposti dall'esterno. Questo è un buon cambiamento imposto da una giuria che ha selezionato il libro, su cui non si poteva fare nulla, e poi invece ci sono dei cambiamenti che operiamo noi. E questo è stato un cambiamento, diciamo così, nella mia vita da scrittore che è stato significativo e ha effettivamente poi generato ulteriori cambiamenti. Ad esempio gli inviti multipli a dei festival a cui finora non ero mai stato invitato, che evidentemente essendoci accesa un po' la luce, un po' il riflettore, ti hanno reso più visibile in qualche questo modo. Per dirci, Deborah, che noi l'abbiamo invitato e lui, nonostante abbia tanti inviti, è voluto venire con noi. Ha fatto bene. Se siamo irresistibili, non siamo è colpa irresistibili nostra. A proposito di libri, proprio ieri ho letto un libro che mi ha aiutato molto e io voglio segnalarvelo. Si intitola Le scelte che non hai fatto, ha a che fare un po' con i cambiamenti, perché noi siamo un po' il frutto delle scelte che abbiamo fatto. È scritto da Maria Perosino, storica dell'arte e curatrice di mostre e di iniziative culturali, che è morta proprio alla vigilia della pubblicazione di questo libro. È un libro che io vi suggerisco di leggere, adesso oggi pomeriggio lo passo anche a Deborah, perché vorrei condividere con voi un po' la tesi di fondo. Lei dice quando facciamo una scelta, leggo dal suo testo, che si tratti di amore, lavoro, casa, figli, il più delle volte non è il 100% di noi a decidere, spesso anzi è un risicatissimo 51%, una parte non piccola di noi, che è quella che Maria Perosino chiama il fattore 49%, continua a essere innamorata dell'uomo che stiamo lasciando, dell'appartamento da cui stiamo traslocando, del mondo che stiamo abbandonando. Ciò a cui rinunciamo non scompare, come avviene in certi film, dove il protagonista si sposa, divorzia, emigra, butta all'aria la carriera, diventa un ladro, un assassino, lasciandosi irrimediabilmente il passato alle spalle. Questo 49% vive con noi, ci accompagna, non cresce perché noi non lo alimentiamo, ma rimane con noi. Noi siamo delle nostre scelte il 51%, ma siamo anche il 49%. E mi sembra che questo sia uno spunto bello, dottor Ballerini, che dice, per parlare di cambiamento. Ma mi è piaciuta moltissimo l'espressione innamoramenti pericolosi, perché si tratta proprio di questo, si tratta di innamoramenti e quindi non di amori. E pericolosi perché ci tengono legato a qualcosa che non ci fa bene. L'esempio classico è un uomo, una donna, un compagno che non ci tratta bene, che non ci fa star bene, che sappiamo, insomma, magari ci diciamo non posso farmi trattare così, è ora di finirla, ma l'ora di finirla non viene mai. E a un certo punto speriamo che accada quel 51, che questo diventi un 49 di innamoramento pericoloso e mi permetta di operare un cambiamento per il mio benessere. 800 24 00 24, vogliamo parlare con voi, vi abbiamo chiesto, dottor Ballerini, e vorrei confrontarmi naturalmente con lei, di chiedere, pensando al cambiamento, qual è l'immagine che vi rappresenta di più riguardo alla propensione al cambiamento? Siete come il mare, sempre in movimento, che cambia di continuo anche quando sembra assolutamente piatto, fermo, oppure siete come una montagna che, insomma, non si muove mai? Dottor Ballerini. Ma abbiamo, ciascuno di noi avrà dei tratti un po' i suoi caratteristici, per cui sarà mare o montagna nella maggior parte delle sue circostanze, ma a volte ci sorprendiamo anche noi stessi, a volte ci sono delle montagne che diventano improvvisamente preda di marosi e flutti e tsunami, per cui decidono, è quello che a volte si dice il colpo di testa, no? Improvvisamente una persona molto statica e immobile fa un cambiamento improvviso che sorprende tutti, oppure una persona molto molto dinamica che tende sempre a cambiare, di colpo vediamo che qualche volta invece si ferma o si paralizza, quindi nel senso negativo. Diciamo che ci sono dei tratti che ci caratterizzano, ma a volte le circostanze e come noi viviamo queste circostanze ci spinge a prendere delle decisioni che non sempre sono le migliori. Vedremo magari dopo quali sono i criteri. Dicevamo prima con Deborah, prima di andare in onda, che anche scegliere di non cambiare è una scelta, e produce un cambiamento. Produce sì quel cambiamento magari, che di fatto è un non cambiamento attuale o magari non genera quelle opportunità che avrebbero generato un cambiamento successivo. Ci scrive un ascoltatore: la tragedia è quando il cambiamento ci viene imposto. Come quello del POS, oppure pensiamo ad un licenziamento, pensiamo ad un amore che ti lascia, pensiamo ad una, ma non ti rinnovano il contratto. A un direttore che ti chiede da essere benessere salvadanaio, fatelo diventare cuore denari. E questo è stato un cambiamento, questa mi piace molto. Mentre un ascoltatore ci scrive che la parola crisi nella sua etimologia greca significa per l'appunto cambiamento. Cambia. Dottor Ballerini, lei oggi ha un compito abbastanza difficile, e cioè aiutarci a far pace con il cambiamento, a renderlo naturale, sia che ci venga imposto, perché c'è questa sorta di accettazione che non deve essere un'accettazione passiva, cercare anche di capire perché abbiamo quella smania continua di cambiare. L'avrai notata anche tu, ci sono persone che cambiano di continuo look, sì, sì, e cambiano pettinatura, che e poi cambiano medico, e cambiano, vero? Sì, sì. E cambiano, cercano di cambiare lavoro, cambiano continuamente il luogo di villeggiatura, non si fermano mai, anche questo è un aspetto di cambiamento, con una frenesia che nasconde sicuramente una incapacità di fermarsi nel qui e ora. E ci sono invece persone che vorrebbero cambiare ma non ce la fanno, persone che ancora oggi ripensano al passato, forse al 49% di cui parla Maria Perosino, e si bloccano perché hanno paura che, dall'esperienza che hanno fatto, ogni volta che hanno affrontato un cambiamento hanno preso la scelta sbagliata, destra, sinistra, sono andate. A me capita quando vado in coda al supermercato, io vedo le code, io mi metto in quella, si blocca, ecco, allora io dico, allora la mia cambia sempre così. È sempre il momento di cambiare il rotolino dello scontrino, la mia, allora non so questo mi ha insegnato che vado così, vado dove mi piace e infatti la coda si blocca. Ti posso leggere il messaggio di Carmen a proposito di cambiamenti gestiti ma non subiti? Mia mamma, 87 anni, oltre a usare il PC per tutto, fa bonifici senza problemi o usa bancomat e carta di credito. Quindi anche un po' prima che avevamo parlato, no? Magari delle persone un po' più anziane che sono più in difficoltà, in realtà forse, come dicevo anche prima, ce la dicono lunga anche su questi cambiamenti e su come li gestiscono molto bene. Mi sto perdendo, ma c'era un'ascoltatrice che ci raccontava del suo cambiamento, un cambiamento radicale, di quelli che lasciano tutto e vanno a vivere in un luogo. Lei, mi ricordo nel messaggio, nelle splendide colline toscane, insomma una svolta. Cuore e denari. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere, non è poi così difficile. E tenere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Ben Bentornati a Cuore di Nari. Oggi parliamo di cambiamenti. Vi abbiamo chiesto di descrivervi attraverso un'immagine. Siete più mare, quindi portati al cambiamento, o più montagna, ossia cercate di resistere al cambiamento. 800 24 00 24 è un gioco, dottor Ballerini, perché mare e montagna possono coesistere nella stessa persona. Abbiamo già i nostri ascoltatori che ci scrivono e ci chiamano. Sì. Iniziamo con qualche SMS. C'è una mail bellissima, molto bella, di Francesca da Bolzano, che vi leggo per intero, perché sono certa che in questa condizione ci si possono riflettere anche molti altri ascoltatori. Francesca da Bolzano ci racconta che si sente molto montagna, non perché vive a Bolzano, ma perché sta vivendo attualmente il cambiamento della sua vita. I figli che crescono e che cerco di far volare, dice Francesca. Io che non mi sento più una giovane donna. La consapevolezza della non eternità di persone care e di avvenimenti che cambiano in base alle nostre scelte. Tutto cambia, ma vivo il passato con nostalgia, non riesco a godere il presente, sono incapace di proiettarmi verso il futuro, non riesco ad accettare i cambiamenti di questa ruota che gira. Dottor Ballerini, una lettera che descrive una persona confusa e anche un po' paralizzata dagli eventi. Una lettera che descrive una condizione comune. Però molto lucida. Molto lucida e molto comune. Perché in fin dei conti ci sta dicendo che c'è una difficoltà sul presente, sì. C'è un passato che è diventato nostalgico, un futuro che diventa difficile da pensare o foriero di negatività, mm-hmm. Il non eterno vuol dire, è per non dire, dire che moriranno, no? E la difficoltà del presente, e questa è una difficoltà che abbiamo moltissimi, la difficoltà a vivere il qui ed ora, pensandolo come soddisfacente. Allora l'invito che faccio a questa ascoltatrice, che mi è cara perché la sua problematica è così comune ed è anche mia qualche certo, volta. Certo, è un po' di tutte le persone nell'età di mezzo, un po' di tutti, che hanno figli che stanno crescendo e genitori che stanno invecchiando. È proprio quello di recuperare la pensabilità della soddisfazione. Cosa vuol dire? Di pensare che se si dà soddisfazione adesso, quella che c'è stata è un ricordo, quella che verrà non lo sappiamo, si dà adesso la possibilità della soddisfazione. Allora si tratta di andare a pescare nel reale, così come adesso, quali sono i fattori soddisfacenti per sé, e di sicuro se li cerchiamo ne troviamo, perché ce ne sono. L'importante è che non ci facciamo troppo ghermire da questa nostalgia e spaventare dal futuro, quindi ancorarsi al presente, ancorarsi al reale. Ancorarsi al presente, al qui e ora, rassicurandoci anche che è tutto in divenire, che anche il presente cambia. Certo, pensando anche a tutti i buoni cambiamenti che ci sono accaduti, perché di fatto tutto quello che ha raccontato, che può essere visto in modo nostalgico, può essere un fattore positivo. Perché i figli sono cresciuti, perché i genitori sono le persone care, stanno vivendo a lungo. Vorrei ritornare a un messaggio molto breve che abbiamo letto prima del GR e che ha colpito anche il dottor Ballerini. La tragedia è quando il cambiamento ci viene imposto. Molte persone in questo periodo di crisi hanno dovuto affrontare dei cambiamenti, cioè, perché imposti dall'esterno. Tu immagina cosa può significare la perdita del posto di lavoro, no? Ecco, dottor Ballerini. Allora, ci sono dei cambiamenti dall'esterno che sono la classica tegola sulla testa, si usava questa espressione, e allora su questo dovremmo muoverci, no? Perché poi la questione è questa, anche un cambiamento imposto che non ci piace ci chiede di muoverci. Un soggetto normale si riprende un attimino e poi decide, ok, adesso da che parte vado. Volevo fare un caveat, cioè dire stiamo attenti però a vedere sempre come negativo il cambiamento imposto, perché a volte non parliamo di questi eventi tragici, che a volte sono proprio tragici, ma basta che magari io stasera ho deciso con un'amica di andare al cinema e questa amica mi dice andiamo fuori a cena. Questo cambiamento che mi viene chiesto dal programma può diventare intollerabile, può diventare insopportabile, innervosirmi, infastidirmi, farmi dubitare di lei. Ecco, dobbiamo vedere anche se quando la nostra resistenza al cambiamento in realtà è una resistenza all'altro, è una resistenza al fatto che l'altro metterà del suo nel nostro incontro e quindi nel dover considerare anche cosa pensa, cosa desidera, cosa spera, da dove arriva, cosa le è successo, perché è molto frequente che incontro persone che sono pesantemente infastidite da piccolissimi cambiamenti in un programma di una giornata buona, no? Sì. In fin dei conti si tratta di cinema o cena, ma se ho deciso del cinema non tollererò che tu mi scompigli questo programma. Allora lo chiediamo anche naturalmente ai nostri ascoltatori se hanno notato oppure se possono provare a riflettere se si ritrovano nella situazione descritta dal dottor Ballerini. Questi cambiamenti improvvisi, anche piccoli, banali, che non ci spostano tanto, se ci fanno arroccare le nostre posizioni e diventare quasi arrabbiati, tanto da trasformare una giornata positiva in una giornata uggiosa e negativa. Vale il proverbio, intanto poi esatto. Andiamo subito da Edi che ci chiama da Treviso, vale il proverbio che dice sai cosa lasci, non sai cosa trovi. Mirko da Verona poi invece sostiene che il cambiamento lo considera qualcosa di positivo anche quando imposto, perché provoca uno stress che in alcuni casi può spingere a dare quel qualcosa in più per superare le difficoltà. Quindi insomma modi differenti di vedere una medesima situazione. Andiamo a Treviso, c'è Edi, buongiorno, benvenuto. Benvenuta. Sì, grazie, benvenuta. Benvenuta. Sì. Anche se tante volte mi scambiano per un maschio con il nome che ho, comunque Edi, no. Edi è unisex, va bene per Edoardo, no? Va bene. Esattamente, esattamente. Niente, io ho sentito l'SMS di prima della signora che più o meno penso abbia la mia età e come lei mi trovo ad affrontare questi cambiamenti della vita che sono umani, che è una cosa logica, però tante volte ci si trova spiazzati. Nel mio caso, per esempio, sono stata da poco anche operata di un tumore al seno e è andato tutto bene, per bene. Carità. Però ti trovi di fronte a dei pensieri che fai logici, umani, nel senso che dici ok, hai ancora figli, devi fare la mamma dei tuoi figli, i genitori sono mancati non da tantissimo tempo e quindi ti trovi anche là ad essere una sorella maggiore e una figlia che di genitori che non ci sono più. E ti trovi ad affrontare tutti questi cambiamenti in un periodo molto limitato molto della denso. Nostra vita, denso. Sì, è un periodo molto denso e tante volte ti vengono dei pensieri, dici ma quanto bene, cioè i pensieri nostalgici ritornano a un'infanzia felicissima, a un'adolescenza ancora più felice, ai genitori che sono stati dei genitori che non ho parole per dirlo. Quindi lei sta facendo, Edi, con noi una riflessione a voce alta, un bilancio assolutamente positivo, direbbe il dottor Ballerini, perché si ricorda di un'infanzia bella, di un'adolescenza felice, di genitori che l'hanno accompagnata. Dottor Ballerini, però è vero, c'è un'età di mezzo in cui ci troviamo a in qualche modo subire anche il cambiamento che ci sta attorno. Cambia lo scenario, i figli diventano grandi, sono cambiati, i genitori diventano anziani, il lavoro sta finendo o per alcuni è finito e noi siamo anche il cambiamento che vediamo negli altri. Sì, poi la nostra ascoltatrice ha avuto una concentrazione, si è sovrapposta la malattia, peraltro un tumore che razza di malattia, perché è una malattia che poi anche quando va bene comunque mette tanti dubbi, rimette in discussione sé, il proprio futuro, a volte il tumore dà una martellata all'orologio, no? Improvvisamente cambia il tempo, il nostro tempo, tutti i nostri programmi che abbiamo fatto magari da qua un anno, addirittura se non anche di più, no? Fermo tutto, fermo il lavoro, fermo la famiglia, devo ricoverarmi, per cui è un cambiamento grandissimo questo che viene imposto. Ma abbiamo visto come la signora tenda a vedere il passato come un rifugio, un pochino nostalgico andare a vedere, mi ricordo come sono stata fortunata come bambina, ma tutte queste in realtà sono delle risorse, non sono un rifugio, sono la risorsa perché l'adesso sia di nuovo felice, torni ad essere soddisfacente. E di nuovo, a volte sono necessari, io chiamo dei riadattamenti, nel senso, qual è il problema della montagna? Che pensa che tutto debba andare avanti esattamente come è andato finora. In realtà noi abbiamo bisogno di continui adattamenti e riadattamenti, per i quali è possibile che una condizione nuova, cambiata, magari anche peggiorativa, che mi viene incontro, non farò sì, ecco, il motto personale potrebbe essere non ti permetterò di rovinarmi la vita. il fatto che oggi c'è brutto tempo, o il fatto che mi sono ammalata, o il fatto che è successa questa cosa, non permetterò a questo fatto, piccolo o grande che sia, di rovinarmi la mia vita in questo momento. Allora dovrò andare a trovare le risorse, perché da qualche altra parte posso pescare. Spesso peschiamo nei rapporti. Allora, i rapporti presenti sono, quando ci sono, speriamo, sono un fattore estremamente di conforto quando siamo in un momento di difficoltà. E quindi l'invito a non chiuderci di fronte a un cambiamento che magari ci infastidisce, ma piuttosto muoverci e pensare nuove strade, perché poi la soluzione sta qui. Pensare quali sono le nuove strade possibili in questo momento, date queste condizioni. Abbiamo, noi ti vogliamo aprire i nostri ascoltatori, certo, che li abbiamo invitati a chiamare il nostro numero verde, e intanto che Deborah, dove scegli di andare? Allora, non ci sono donne, perché tu sai, quando ci sono donne diamo sempre a loro la precedenza. Abbiamo, vorrei sentire l'ascoltatore di Torino, perché anche in questo caso ha un nome molto originale, Joari? Sì, sono Joari. Buongiorno, di che origine, che origine ha questo nome? Italianissimo, però sono nato in Malesia, a Kuala Lumpur, e i miei genitori mi hanno messo un nome locale. Bello, capito, e cosa significa? C'è il nome in sé letteralmente significa molto famoso, tuttavia non ci tengo tanto. Bene, allora, molto allora, famoso da Torino, ci dica. Guardi, io penso di essere una persona che cerca il cambiamento, lo cerco in modo strutturale. Ho letto anche a riguardo, ad esempio, un bestseller che è il libro Who Moved My Cheese, che ha spostato il mio formaggio. Ne abbiamo parlato anche con Alberto Pellai in una puntata, che magari mettiamo per un commento nelle pagine di Cuore Denari, che è un libro molto interessante. Mi dica. Sì, l'esperienza mia è stata un po' questa, cioè cercare il non tanto una zona di comfort, ma una zona di discomfort, che è una zona in cui di cambiamento, perché nel momento in cui si cambia che si cresce in qualche modo, perché bisogna tirare un po' fuori di sé ciò che in quel momento magari non è statica o stabile, non si vede in se stessi. Quindi cambiando si ha la possibilità di scoprire noi nuovi sé, ecco. Questa è una cosa che io penso. È vero. E la metto in pratica. E bisogna metterla in pratica, ma a volte, dottor Ballerini, non abbiamo la forza di farlo, perché tutti in teoria diciamo si cambia. Anche Deborah e io, quando ci hanno detto cambiate, abbiamo avuto un po' di paura. Beh, certo. Ecco. E magari ci sono delle volte che siamo ingabbiati un po' dalla nostra parte conservatrice, la nostra parte montagna, che dice ma fermati, stai bene qui, e non abbiamo la forza di seguire la parte invece che ci spingerebbe ad esplorare nuove strade, nuove relazioni, nuove, certo, parti di noi, la parte mare. Quindi viviamo, per rifarci al libro di Maria Perosino, sospesi tra quel 51% che sceglie e quel 49%, che è quello che è stato eliminato, che continua ad accompagnarci, ma insomma non riusciamo a fare lo scatto. Questo può essere motivato da tante cose. Ad esempio, alcuni ascoltatori mi dicono il fattore denaro. Uno vorrebbe fare delle scelte, oppure la famiglia. Dottor Ballerini, le complico ancora un po' il quadro. Più citato, sì. Allora, esistono quelli che si chiamano dati di realtà. Sì. Il dato di realtà è un dato che noi possiamo ignorare, e quando lo ignoriamo tecnicamente si chiama rimozione. Può essere, ci arriva una bolletta, riconosciamo che è una bolletta, ma non la apriamo. Sì. Non la apriamo perché abbiamo paura di... o una multa, la busta verde, non la apriamo, e non sappiamo se dentro nella lotteria ci è arrivata una multa da 45 euro, da 450. Non vogliamo saperlo. Non vogliamo saperlo. Come l'estratto conto. Come l'estratto conto, che non lo si apre. Allora, come appunto, non voglio andare a vedere, quando mi dicono in banca vuole il saldo, no, grazie. No, grazie. Allora, questo si chiama rimozione. Sappiamo che la rimozione funziona, ma funziona fino a un certo punto. Perché, come si dice, i nodi vengono al pettine. Bravo, e come mi è piaciuta questa. Addirittura sappiamo che se non pago dovrò pagare anche la mora, quindi dovrò pagare anche qualcosina di più. Allora, il tentativo alla Rossella O'Hara del ci penserò domani, sì, domani è un altro giorno, tecnicamente funziona un pochettino, ma poi ci torna indietro come un boomerang e ci torna sui denti. Allora, il dato di realtà è un dato di realtà e noi dobbiamo guardarlo. che ci piaccia, perché a volte c'è una realtà che ci piace, ma stiamo parlando di solito di realtà che non ci piacciono, non possiamo, ecco, ignorarlo. È il primo consiglio che do, è non ignoriamolo. Non ignoriamolo. Apriamo questo estratto conto. Prendiamo atto, perché poi il prendere atto è ciò che mi permette di farmi dire adesso mi muovo, perché certo, la possibilità è il prendere iniziativa, è il prendere iniziativa e il non sentirsi soli. Io credo davvero molto in questo, perché poi la disperazione viene dalla solitudine. Io prendo atto, identifico che c'è bisogno di muovermi, se non riesco a capire come muovermi chiedo. No? Ci sono dei soggetti nella cerchia familiare, nella cerchia degli amici, ma può darsi anche nella cerchia degli esperti a cui chiedere un aiuto. In questo modo il cambiamento che ci viene imposto, che magari ci sembra una maledizione e che magari lo è davvero, perché ci fa stare male temporaneamente, speriamo non troppo lungo, in realtà poi è per noi una spinta per riportarci su uno stato di benessere. Ma non abbiamo ancora parlato, perché noi vediamo sui resistenti, ma tantissima gente invece è esattamente al contrario, ossia è esasperata dal cambiamento. Infatti, ecco, come ci scrive Carmen, continua a cambiare. Io cambio sempre, sono presa in giro, cambio sempre le cose della mia casa che adoro, oltre a catalogare all'infinito libri, CD, DVD, che è anche un piacere, però Carmen ci racconta questa, l'avevamo citata all'inizio, questa sorta di frenesia di cambiare tutto. Certo. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Tancredi nel Gattopardo aveva visto bene. Esiste un modo di tenere le cose come sono, semplicemente continuando a cambiare. Conosco una persona che cambia la disposizione del mobilio quasi mensilmente e io lo chiamo il regno dell'insoddisfazione, certo, perché non va mai bene. Allora chiediamoci quando il nostro cambiamento continuo, queste esigenze, in realtà sia per una nostra insoddisfazione cronica su cui dovremo anche interrogarci. E noi andiamo da Paolo da Cremona, che chissà se aveva pensato a questa lettura dei suoi continui cambiamenti. Paolo, buongiorno, se ce la fa rapidamente, perché purtroppo tra un minuto terminiamo. Eccoci a lei. Certo, buongiorno a tutti. I cambiamenti sono stati in parte solo dovuti da me, in parte vissuti almeno da me con obbligo, quindi obbligati, non tanto voluti. I miei cambiamenti hanno riguardato soprattutto gli ultimi 4 anni della mia vita. Io avevo un lavoro stabile, un lavoro fisso, un lavoro statale, quindi sì, tranquillo, tutto a posto. Che cosa è successo, Paolo? È successo che ho deciso di fare un professionista, avendo raggiunto un titolo che cambio da anni, ma che avevo abbandonato nei cassetti dei sogni. Però ci sono riuscito e ho fatto il salto cosiddetto della quaglia. A questo punto mi trovo ad essere libero professionista, allo stesso tempo però cambia tutto, cambia responsabilità, gli orari. Lei è contento, Paolo, di questo cambiamento? Stiamo in chiusura. Allora, sono contento. Mi dica sì o no, o ni? Ni, perché è sempre la risposta più giusta, per tutte le cose. È vero, è una risposta giusta, dottor Ballerini. Noi siamo in chiusura, proprio un messaggio, commento da portarci a casa oggi. Beh, in questo caso, ma serve anche a questo ascoltatore, esiste un fattore tempo, per cui rispetto ai cambiamenti dobbiamo anche avere la pazienza di concedere loro il tempo di maturare quei frutti che magari non riusciamo a vedere immediatamente, oppure e magari sono proprio procrastinati. Nel caso non arrivassero, ci si ripensa, si impara da ciò che è accaduto e si riparte con una nuova soluzione. C'è sempre la possibilità di ripartire. Grazie al dottor Ballerini, noi ci sentiamo domani. Certamente, grazie a tutti e buona giornata. Anche a Pietro Lacorte, che oggi è in regia con noi alla parte tecnica. Laura Vanossi, Marco Lombardo, e chi più ne ha più ne metta. A domani. A domani.